Ehi ragazzi, come sono sexy questa sera. Mi guardano tutti, mi sono messa anche le calze nere, perché mi piace proprio quel ragazzo, è il più bel DJ del mondo. E questa notte sarà mia, lo farò morire. Questa notte sarà proprio mio. Como tanto prego que tiene moado estás, ¿no? ¡No! ¡Sí, claro! ¡Claro! Do you? americana, no me besas, no te digo más nada. Thanks.